Ciao Gianni. Vabbè, ma non è un controllo di segnale che ho chiesto a parlare per la nuova. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. 9, era di 5. Perfetto. Sono nuovo ti sta arrivando. E devo regolargli lo Smith a questo Galaxy. Sto usando Saturn Echo. Devo fare la regolazione dello Smith, adesso quando entra Roberto faccio la regolazione. Dove sei? 9:10. Ok, il mio, non te lo ricordi, il segnale. No, non tutti i baracchini che c'ho, uno diverso dall'altro, vai a metà di due. Il segnale è giusto. Figurati. Vabbè, dai. E se già si può regolare. Come mai ce l'ha sballato il segnale? L'ho comprato così, questo che segna a Santiago 9, il tuo. E tu Roberto 9:10 ce l'ho vicino a casa, hai capito? Non è che sia proprio vicino vicino, però dovrebbe essere da 9 a 9:30, in teoria, hai capito? E quindi devo, quando entra Roberto, stasera faccio la regolazione dello Smith. Aspetta un attimo, è un luogo di cicchi. Ce l'hai aperto qui l'affare? Sì, sì, è aperto. Siete come per me di segnare, ma io mi sembra che ti arrivassi 9:30, roba del genere. No, 9:30, no, 9:20, 9:20, una cosa del genere. Però pare che il lato cambia, già lo sai. Gli apparecchi ne ho comprato due. Ho preso questo Saturn Echo e le... come si chiama? L'altro apparecchio che ho qua. L'Aritone. Capito? Per Natale adesso ho comprato due. L'Aritone! E com'è questa Aritone? Aritone c'ha 2, 4, 5, 6 pulsantini, poi c'ha le manopole sotto, il frequenzimetro grande, c'ha l'eco, c'ha un bel roba, capito? Si chiama Ani Tone AT5555. Che male! No, per macchina, per macchina. Ecco. Vabbè, come il garage, quello più piccolo che avevano fatto, è per la macchina. È completo, eh? Sì, vabbè, tu sei però tipo Samurai Galaxy, là. No, ma le frequenze metto molto più grande, cazzo. Neanche a paragone a quello del coso, del Samurai o del Galaxy 2. Vabbè. Quindi ti sei fatto il regalo? E io mi sono fatto il regalo, 300 euro non spesso. Magari. E mi sono fatto il regalo per Natale. Me l'avevo conservato 6 mesi fa, figurati. Volevo prendermi un 680 invece poi io... mi è andata male, allora qui di picca mi sono pigliato questi due apparecchi. Quindi sono tranquilla, me li tengo. Tutti e due. E l'utilizzo. E il garage moto ti è venuto? No, quello di coso, di moto, questo. Eugenio. Ah, ce l'ho venuto? Ce l'ho io. Ah, capito. E come va la vita? Perché adesso c'ha il capo. Mila, sento male il vestito. Sì, ti sento, avanti. Segnale 3. Chi è? Radio 3-4, non di più, Tu dove sei? Chi è Alessio? Oh, sei andato Eugenio. Eugenio, tu sei, sì. E sei? Chi è Antonio Sceriffo? Sceriffo sei. Ma non è Antonio questo. No, ho capito chi è. Unico, una cosa del genere, mi sembra. Lì dove si trova? Dove sei, amico? Ho capito che sei in giro in macchina, la roba è però. A Spintino, lì, dove sei? Sei a Trentino. Sì. Dovete arrivare più forte alla vetta slitta, eh. Anzi, dovete arrivare molto più forte a me e a cosa? A... mi fa più forte. A Gianni che a me, la verità, perché c'è di fronte. Io praticamente da Stentino in macchina vi sento Santiago 995. E lui per essere a Stentino non è che sia tanto alto, il segnaletto è, non lo so io. Dovrebbe arrivare 7, 8, una cosa del genere, dipende da che punto è di Stentino. Ecco che apparecchio sta uscendo, comunque antenna, tutto dipende. Beh certo, se usa di quelli omologati come ho comprato io l'altra volta è meglio niente. Meglio che vada al primo casetto e ce lo butta. Attento, Stentino! Sparito. E tu di radio come mi ascolti già? Bene? È una bomba, sì. Ma col microfono normale, sì. No, cosa delta so. Anche io. Come mi senti tu ti sento io, sicuramente. Ma io c'ho l'eco, dai. Vabbè, io l'eco devo sistemarlo, perché ho visto che ha dei falsi contatti, quindi vabbè, quello me lo sistemo da solo, è quello il problema, no? Non mi rovina. L'eco funziona, nel senso che la corrente c'è. E vedi qua, fa lo scatto. Solo la problema è come si chiama nella scheda, ma quella è una cazzata. No, è quello il problema, già mi arrangio, io sono sempre arrangiato, già lo sai. Certo, non è quello che conosco come le mie tasche. Allora, ma io sto parlando dell'eco del Salelta, capito? Non del baracchino. Ah, vabbè, tu c'hai la scheda, c'è l'eco del Salerno, no, io l'eco del Salerno non ne ho, c'ho le mie, il CM40 come special, come microfono Salerno. Se mi sarebbe voluto l'eco, l'avrei messo il corso. Il DB1000, tanto per dire che c'è molto meglio dell'eco del Saturnecco. Io ce l'ho anche nel Saturnecco, ecco, che funziona tra l'altro. Se non metto due succederà un casino nero, lo so. Lo so, più che non è verbero, capito? Ecco, proprio non lo è, ma comunque sia. Questo è modificato con questo apparecchio qua, perché c'ha dentro l'alimentatore da 30 ampere di quelli cinesi, messo dentro. Ah, ecco. Sicuramente dice il trasformatore dà sempre quel problema lì. Dà il problema che si forma questa alternata e nel Saturnecco c'è quel difetto lì. E me l'hanno fatto in un altro Saturnecco a me. E vibra fa alternata e cose. Basta sostituirlo, mettere uno di quelli cinesi appunto, e va benissimo. Ti sentiamo, ma non sei altissimo, dai, ti sentiamo basso però. Io ti sento con un Santiago di 3 e una radio di 2, dai, va benissimo, ci capiamo, va bene. E a segnale 3, quindi Gianni è 8, e io quanto la devo a te? Va bene. A voglia, ce n'è anche per il pollice con questo apparecchio qua. Guardano bene il segnale, che l'ho guardato bene, guardano bene, l'hanno istintino. Avanti buon penny per il barbato. Ti ci sono buono a compare. Se attacco di getto salgo parecchio, salgo me. Più per 10. Adesso per il momento. Se lo so a bancone, quindi aperto la parecchia, non mi interessa niente compare, va bene così. Ma io non ho pompato, solo aumentato il power del baracchino, capito? Che ce l'avevo al minimo, l'ho messo al massimo. Sì. 9,20 e sono liscio io. Ci va bene 9,20, già va bene. Adesso diminuisco il power del... Ecco, adesso diminuisco il power del baracchino. Adesso al minimo. Il clima ho visto con la giamaletta, quindi vuol dire che l'ho già sistemato. L'unica cosa che non avevo toccato è come si chiama l'LC che l'ho ritoccato io stamattina. È perfetto adesso. Insomma, era stato tutto malomesso con la parità. Ah, è malomesso, modificato l'anno e basta, capito? Però i parametri li hanno lasciato quelli originali, non è l'unica cosa che hanno toccato il latte, però dai lecci niente, dai lecci l'ho toccato io, se noti bene la differenza c'è. Io sono adesso con l'idea del latte e c'è dei picchi allucinanti. E la modulazione è molto amplificata anche si nota. Ma ti volevo dire, con quanto esce la Apple? 4 al minimo e 15 a manetta, se la si nota. No, deve uscire 10 la Apple, da 9 a 10 e 21 in manda laterale. Vabbè, mi segna 15, cosa ne so, questo fate mezzo, segna così, l'altro c'è la video, già lo sai. Ho toccato il vate allora. Il vate sulla manetta, infatti, il clima del vate è manetta, io non ho neanche toccato, l'unica cosa che ho regolato è le lici, basta, non ho toccato altro. E vabbè, già lo sai, c'è la manopola esterna, quindi non è che me ne fotte più di tanto. Adesso sono al minimo delle cose dei watt e sto usando così e già vabbè, a voglia, se metto a pompare con le linee esce perfetto, se c'ha dei picchi allucinanti, poi vabbè, tanto vabbè, meno l'ho controllato tutto bene, pulisco il trimmer, quello che lo sai che è stato necro dopo un po' di tempo fa, cominciare a dare i numeri di trimmer, come quello che mi è capitato l'altra volta. E ho cambiato tutti i trimmer ed era un demonio, era, usciva veramente forte, l'altro è stato necro. Quello prima di questo. E già l'ho preso, se ne scacciavi i trimmer, normale che da voi se ne andare in col paese. Bastano scacciavittare. Il mio è come è nato dalla fabbrica, perché questo qui la verità non avevano abbassato il watt, forse per usarlo con lineare, non lo so, avevano messo un watt e mezzo, era troppo poco. Io sono andato e mi sono controllato dove era il trimmer per alzare il watt, e li ho alzati a 9 watt, non era 10 l'ho messo, a 9. Adesso un po' di omicidi. Ah sì, c'è 7. E dove sei adesso? Sei ancora? Beh, panettoni! Sono arrivato a QTH piccolino! Che cazzo, se sei arrivato a QTH piccolino già va bene! E avanti ti vuole il panettone che non abbiamo! Buongiorno Gianni! Ciao Carlo, buonasera! Bene scucito! Ehi, andando a lavorare, corso Trinità per me. Adesso andando a lavorare, quindi stavolta esci alle 11. A mezzanotte e mezzo, 16:30, mezzanotte e mezzo. Ciao Carlo! Ciao, chi è? Doppio Rum! Ehi, salve, carissimo. Io accendo adesso in macchina e sto andando a lavorare. Ho riconosciuto subito la, diciamo, la voce inconfondibile di Antonello, ma altri non so chi sia in ruota. Ci siamo io, Gianni e l'amico di Tintino. Avanti amico istintivo, sta andando a QTH piccolino a pisciare, invece è andato a qualche bar, non ce la faceva più. Sceriffo la Protovers, l'amico. Carlo. Dimmi, Antonè. Amico di Protovers, sceriffo. Sceriffo, ero fermo al semaforo qua, adesso si è mosso qualcosa, c'è una fila allucinante qua, tutti andando a pigliare i regali per Natale a Predanietta. Ah, se vai all'immedì adesso ti danno il pacco regalo, approfittane Carlo stasera. La pubblicità è quella, tu vai lì, se sei fortunato ti danno un televisore grande oppure dei palettoni o quello che capita. Deve essere a seconda della spesa che fai. Ho capito, adesso sto iniziando viale Porto Torres, sul cavalcavia sono e inizio viale Porto Torres, poi giro verso Alghero dietro il cimitero. Ah, ho capito, quindi ci va bene. Gianni, anzi. Compagno, sei il numero uno, ti ascolto da parecchio. Sono contento che sono il numero uno. Con questo Saturnetto, sono contento che mi ascolti bene, vuol dire che funziona. È troppo simpatico. simpatico. Ti ringrazio. È doppio Rumsov. Era qui, Gianni. Attenzione Gianni, doppio room, mi ascolti ancora? Gianni invece che ho chiamato al telefono, senz'altro. Sicuramente, sicuramente. Attenzione, sceriffo, mi ascolti qua Carlo. Tutto quanto, strada per Alghero, fine viale Porto Torres. Sceriffo! Mi avvisi, monta la frequenza, confuso. La settimana scorsa lui è a Porto, sono andato in un circolo vicino alla, al porto, adesso non mi ricordo la via. Cazzo, era più corto lui e i clienti che c'erano dentro. Ma il portatore c'è così. Cazzo, mi ha chiesto il Green Pass, era mezz'ora scannerando. Gli ho detto, ma c'è la freddo, ma. No, no, non ti preoccupare, già. Già va bene lo stesso, entra dentro, mi ha detto. Cazzo, mezz'ora gatto scannerando, cosa vuol dire il suo. Mica me l'ha dato in farmacia, non è che me l'ha dato detto alla mutua, gli ho detto. E ho detto, lento, fregatene. Bevi tranquillo, mi ha detto. Era quasi 11:30, mezzanotte. No, hai dato il grippato di quello di mezzo alle gambe. Sì, la mia cultura, stava cantando lui e anche gli altri clienti che c'erano. Hai detto, dove sono capitato, per carità, e avrei saputo, ma il contatto ci sarei. Ma che sei sceso? Sì, sono sceso la settimana scorsa, era di sabato. Domenica mi sembra che era. Sabato notte o domenica la notte. Sono andato fino alle quasi alle 1:30, 2 di Apollotore. Era un freddo. C'erano 5 gradi fuori. E a Cosciolunga ci è andato? Ah, mi sono andato a Cosciolunga io. Io quando sono uscito di Lancico sono andato direttamente a Sassari, poi ho un freddo in testa a me, poi mi sono usato in pratica per Marco 3 mesi, figurati, cazzo il freddo, ho fatto male a non pigliarmi la cuffietta, no? In attesa c'avevo un freddo, per carità. E qui in Italia te la tira meglio, non te la mia. Infatti, appunto per questo. Avanti Carlo. Adesso sono dove c'è Conforama, praticamente. Quindi io, Antonesia, ti sento sino all'aeroporto a te. Tu magari no, non mi senti più perché poi con l'antennino base magnetica sono piccolino. No, penso di sentirti con questo apparecchio. Questo non prende ancora verme, questo apparecchio è sondo. Grazie a Dio, no, quel verme non lo intendo con questo. Un apparecchio leggermente sordo di... Quel verme non li sento, quindi le modulazioni dovrebbero essere perfette. Perlomeno. Voi si vedrà, adesso facciamo la prova. Ho capito. Questa radio che stai usando esce bene, è bella chiara di radio, vabbè il segnale tuo è sempre a bomba, però la radio è buona, bella radio. Sto usando quegli apparecchi a stazione base, grande. Quello che c'è Gianni, Saturnetto. Bello, bello quello, già lo conosco, sì, me lo ricordo, è diciamo di vecchia generazione quello. Esatto, sì, adesso di vecchia, se vai a controllare quanto lo stanno vendendo, è da pazzi, 300 euro, chi 250, chi 200. Al lockdown si sono tutti quanti sollevati, capito? Perché la maggior parte della gente sarebbe venuta da baracchino. Se non fosse tranquillo, se non c'era stato il lockdown, questa parecchia qui l'avete ritrovato anche 50, 100 euro alla coppia. Che c'è parecchia gente che sta buttando questi apparecchi qua, la verità, perché se no vanno 2:20, te li metti a casa, non devi stare con l'alimentatore, capito? Non fai altro che pensarti un'antenna veloce per poter parlare, dopo che finito il lockdown, che esci, che sei tutti i giorni in giro tra un locale e l'altro, ristoranti e pizzerie, allora prendine e ne stacchi il nuovo tutto. Così stanno facendo. Adesso fra poco riandiamo di nuovo in arancione, quindi vedrai la gente che rientra di nuovo a baracchino. Questo è poco ma sicuro, perché andare ai circoli o ai bar sarà molto difficile che ci possano andare. Stanno aumentando i contagi, quindi stiamo come prima fra poco. Stiamo nuovo come prima. scendere rosso siamo fregati davvero qua. La gente che viene, che impazzisce a casa, che va nel supermercato, si fa la scorta di birra, vino, superalcolici e fa le serate in casa, con karaoke. E io lo so, aspetta un attimo, entro subito. Sono rientrato. Dimmi. Ehi, ti sento, se ti sto rispondendo, ti sento la voglia. Segnale 2:30, sì. Ehi, si abbassa, sì, finché non ti metti l'antenna a 100 capota, è logico che esci così. Ma non ti metti l'antenna a 100 capota, che vedrai che... Ti metti un bel microfono amplificato, la voglia che cambia la cosa. Esagerato, 9:50. Infatti sono 12. 12 tonti. Microfono amplificato, l'unica cosa che ho aumentato è il C. In questa parete non ho fatto altro, ho aumentato solo l'audio, basta, non ho aumentato nient'altro. Infatti sono 12 così. Adesso sono sceso. Ecco qua. Sono 4:30 e la Mivat e solo di radio mi si dovesse sentire. Ah, ok, quindi sei su Vitevinio, sì. Va bene. Ha voglia, voglia. Gianni è sparito, Gianni ci sei. Adesso sento la scarica del coso, cazzo dei cavici qui. Sento le scariche dei cavici dell'Enel, basse, ma già le sento. Beh, vedo di più. Se stai facendo quella cosa buona, va per sistemare quella casa. Ti passa tutta la mattina. Io mi sono svegliato stamattina alle 8:10, 8:15, c'avevo l'appuntamento con un amico, invece poi il telefonino in pratica ha dato dei problemi e mi ha fatto 4 chiamate. Quando l'ho chiamato io erano già le 9, quindi è andato direttamente a casa sua perché ha fatto la notte ieri, capito? Fa il vigilante, quindi ho sentito presso stasera che andrà, forse a 16, non lo so, non ho capito bene se deve entrare di lì presso le 8, quindi adesso sta riposando. Io ti sento la voglia, già devi dormire la voglia, quindi sei quasi, diciamo, arrivato là, tra poco dovresti arrivare alla sera vecchia di Alghero, dopodiché sei a posto. E va bene, 5 minuti a voglia, se divido almeno sei al lavoro, ti sbrigo il lavoro lì, poi stavolta quando rientri, se vai a nanna, domani mattina ti svegli, tranquillo, ti svegli almeno. E non penso che domani vai a Bonova a lavorare, no? Penso che vai a te, ti riposi almeno una volta. Ah, allora già va bene, visto. Domani sei tranquillo. Domani quando ti svegli ti prendi un bel caffè, ti prendi, no? Al bar, ti rilassi. Adesso non ti sento più, mi sei sparito proprio. Non ti sento più, Carlo. Ma è già arrivato lì a Fertiglia? Sì, no, credo. Ehi, vabbè, io non lo sento più, no. Adesso deve essere proprio in un punto ombra. Sono arrivato lì a Fertiglia senz'altro. Avanti, amico di dottore, se ci sei ancora. Chi è? Popò, io ti saluto, ok? Ciao! Ehi, ciao, buon lavoro, buon tutto! Alle prossime, amico, buon lavoro! Grazie, numero 1, ciao! Ehi, ciao! Numero 1, magari! Già va bene lo stesso, già mi accontento! Sei forte, cosa stai usando? Ho usato me, cosa sto usando? Bella radio. Va bene, sono contento anch'io. Quando le radio escono bene, fa anche piacere sentire che non ti dica che sto uscendo bene. Grazie, ti saluto, boss. Ciao. E io, ciao, ciao, alla prossima. E adesso sì, segnale 3. Ho capito, quindi sei già arrivato là. E va bene, ci stiamo stasera, quando rientri. Se sono a banchina, sono con la mattina. Al limite, se sei a casa, fate sentire così almeno. Ti beviamo un caffè. E io, ciao Carlo. Alle prossime, domani o stasera, se ci sono a baracchino, limita quello là di Creto rientri. Buonasera California 2. Santiago 3. Ciao, altrettanto, ben sentito.